Se avessi ascoltato i miei amici, adesso non sarei qui a domandarmi e a chiedermi se era vero quando mi hai detto che mi amavi. E poi lo giuro, pronunciato da te sembrava vero, talmente vero che ci ho creduto. Tu mi hai mentito, illusa, tradita, non voglio il tuo amore e non ti serve neanche il mio cuore. Se poi amo un'altra, di fiducia in te l'ho avuta, chissà se tu l'hai avuta in me. Che male me ne hai fatto, ma non l'ho mai capito, scema sono stata, ma come non credere ad un poeta. Le poesie d'amore hanno fatto innamorare il mio cuore di te, è stupido amore. Fingere non ti serve a niente, non esisti soltanto tu al mondo, però ti ho amato veramente, eri l'unico pensiero che io avevo, eri tu il ragazzo ideale per me, così pensavo. Oh no, ma adesso basta, ho sofferto anche tanto, basta, la verità la voglio. Eppure non ci sono riuscita, scusatemi. I miei amici mi dicevano che dovevo stare lontana da te. Eppure non ci sono riuscita, scusatemi, scusatemi. Basta, ho sofferto anche tanto, basta, la verità la voglio adesso, basta, esci dalla mia vita, no. Basta, ho sofferto anche tanto, basta, la verità la voglio adesso, basta, esci dalla mia vita. Ti amo veramente, credimi amore, non ti ho mai tradita e nemmeno mentita. Chiunque sia stato a spargere la voce, ti giuro e ti rigiuro che lo scoprirò. È pure un'idea, io ce l'ho, credo siano stati i tuoi amici gelosi di noi, gelosi perché non ci sei cascata e non mi hai scontato. Da.